approfittato che dovevo fare delle cose in garage e sono rientrato. Non sono nemmeno a pranzo, sono rientrato oggi, quindi me ne sto rientrando. Mi sono appena asciutto e mi sto mangiando due noccioline. Non andarci a lavorare, Fabrizio, non andarci, che fa male. Sì, ma bisogna andare, bisogna guadagnare i soldi. Ma lascia stare, bisogna guadagnare i soldi. Ci prendiamo poi come me che prendo il reddito cittadinanza, me ne fa a casa. Cosa ridda, eh? Nemmeno in gasolio ci metto il reddito cittadinanza. Senti, oggi, secondo me ti viaggia con un vuole che da stasera a Porto Torres, se tutta la settimana mi divora milli di gasolio al mese, e lui lascia perdere. Non tocchiamo questo tasto, ma che l'altro giorno mi ha fatto culo uno, capito? Ce la mantendi, io vado a prendere il caffè lì via Carlo Felice tutte le mattine, stavo cantando, parlando proprio di pensioni, di queste cose, esordito, no, io mi dico quanto te senza far nulla. E poi la cosa è quello da lì a capo, 40 anni lavorando, vergogna, cazzo, vergogna. C'è gente che come me ci riesce, tu sei riuscito, pazienza. Ma io non avrei mai fatto una cosa del genere, io mi sono gimoggiato anche le mani, capito, tra i dedi, le fine e tutto. Ho iniziato a 16 anni a lavorare, oggi te l'ho già detto, e posso vantarmi di essere andato in pensione a 58 anni. Non è una grande pensione, 1300 euro al mese, però posso avere la dignità di dire a voce alta che ho lavorato. Non come ti dice i cani morti, no, che prendono 1000 euro di cittadinanza e non ho mai fatto niente in vita sua. È una vergogna, credimi che è una vergogna. Perché io ho lavorato come me, come tanti altri, e come te che ti spacchi il culo mattina e sera, o come Fabrizio che fa i trunni, o come Carlo che viaggia ad andare a lavorare all'Alghero tutti i santi giorni, e come tanti altri. È una vergogna, capito? Che questa gente prenda poco meno di te, che tu hai lavorato 40 anni spaccandoti le palle. Bello. Io a gennaio stavo controllando, a questo gennaio qua, primo gennaio ho fatto 32 anni di lavoro, cosa dite? Non puoi andare ancora perché non c'è l'età, non è l'età, capito? Io invece ne avevo 40, 38 veramente, mi hanno dato 2 anni di scivolo proprio come lavoratore precoce. E quindi sono con quota 41, perché poi ai 40 lavorati ho aggiunto 12 mesi di militare e sono andato con quota 41. 38 anni fa che ne medicina, capite? 38 anni fa che ne medicina. Ho 1.330 euro pagati al mese in missione. E gli si pigliano 1.000 euro, 900 euro di italiano, e trovano un cazzo. Ma lasciamo, chiudiamo il discorso, se no mi adiro. E poi mi viene l'Alzheimer. Avanti, Fabri. E lasciamo perdere. Tanto con dura questo reddito di cittadinanza. Lo cambieranno qualcosa, per carità, chi ha bisogno, che non può muovere le gambine, è giusto che gli si dà un aiuto, ci mancherebbe altro, ma se puoi lavorare, è giusto dargli dei soldi perché farli morire di fame se non ha lavoro. Però perfetto, reddito di cittadinanza, da domani quanto prendi? 800 euro, perfetto, almeno 4-5 ore al giorno, almeno la mattina a lavorare, a pulire strade, a imbiancare, a portare la spesa agli anziani, se tu eri bravo in biblioteca a riordinare, qualcosa la fai, a casa non ci rimani. Sì, è obbligatorio, Fabri, lo so, è obbligatorio, capito, che ti chiamano, se ti rifiuti ti tolgono le tue serate, se puoi lavorare, se puoi avere delle patologie, per carità, io su questo non ci metto lingua, ci mancherebbe altro, se uno è sano, però, perché c'è molta gente che si sta affrontando, che è sano, mente un pescio, e non fa di una mattina alla sera, tutto lì il problema, che mi gira un po' le scatole, capito, Fabri? Se poi uno ha delle patologie che non può andare a lavorare, ti chiamano, dimostri che non puoi lavorare, pazienza, ma c'è gente che sta tutta la mattina, tutto il santo giorno, capito, in giro senza far niente, corri per cittadinanza, non andare a travagliare, c'è quello che mi dà un po' fastidio. E mai fatti, che mettessero una briglia un po' a queste cose, e vedi che il governo avrà più soldi. Vabbè, ti ripeto, io non ho niente a rincriminare nessuno, per carità, se uno ha bisogno di un aiuto, ben venga, però che stiano molto attenti, perché c'è gente che sta facendo il gioco vaglio, come si dice a Sassari. Vai Carle, che mi allontanare, ci sentiamo dopo. E io Fabi, siamo qua. Vai Carlo, chi c'è rimasto oltre a Eugenio? Ci sono anche io, ci sono anche io. Ho incontrato un amico al quadrato e mi sono assentare, là. Gava gava. Roberto, non ti accentare molto, ti sei allontanato da questo amico, ci avevi la mascherina? Certo, aspetta che sto al telefono. Bravo, adesso la mascherina te la puoi togliere se rispondi al telefono, Gianni. Avanti, genio. Allora, aspetta di dentro a casa, tu cosa sei, in giro in macchina con l'antennone, a rubare per i zamastesi. Poi per il zoma lo prendi con la punta dell'antenna, lo devi prendere perché rimane là impigliato. Una cosa delicata, bisogna prenderlo con una certa maestria. Gappa gappa, no, stavo chiedendo a Carlo, perché sai, io con tutti i microfoni che ogni tanto ne attacco uno, no? Questo ad esempio è l'Adonis AV508, no? Io continuo a mettermi le cuffie, continuo a ascoltarmi, ma la modulazione non ciamba. Stavo cercando di capire da Carlo se era cambiata qualcosa, capito? Ma va, adesso tu da quel paese. Tu da quel paese, mi devi cazzà. Ti dà il microfono originale, cazzo, esci fuori così, non è una tesi, boh? E se non te lo faccio anche sentire il microfono originale? No, è perché volevo fare una cosa, invertire per dire il microfono, mettere questo Iaesio e mettere l'altro Iaesio, però lo lascio stare qua perché va bene lo stesso. Oia, come sto? Riprendi Carlo, fai girare, vedi un po' se Gianni ha smesso di telefonare. Sì, io stavo riordinando qua documenti perché entro gennaio devo rifare la certificazione ISEE, quindi già scienza media. Mio figlio c'ha lo stesso una carta di quelle ricaricabili, quindi anche lui già scienza media, mia moglie già scienza media, insomma, codici fiscali, le macchine vogliono tutto quello che hai, se no ti respingono la domanda, capito? Adesso ho fatto tutte le fotocopie delle tessere sanitarie, così ho preso l'appuntamento stamattina in patronato perché si può fare anche online con l'INPS, ma mi hanno detto che la piattaforma molte volte ti butta fuori e non ti fa inserire i dati. Allora, dal momento che ho la tessera e sono iscritto al sindacato, me lo fanno gratuitamente, capito? Ci sono pari 16 euro comunque, mi hanno detto che il manager me lo fanno gratis. Ho fatto sempre e non mi hanno mai fatto pagare, capito, nulla. Ah, allora sei fortunato. Sai che me l'ho prenotato l'altro qui per lunedì alle 10:30 qui al Monte Regna. Lo sta che ogni mese abbiamo una scadenza e quando c'è il 740 da fare, e quando vogliono l'ISEE, quando c'è il bollo della macchina, e quando c'è l'assicurazione della macchina, sempre da pagare abbiamo, non c'è mese che passi tranquillo, dobbiamo sempre pagare. Mi lascia stare i bolli delle macchine, ne ho 6 questo mese a pagare, tu vuoi mamma? 2, poi questo mese sono andato a Osilo dal meccanico che c'è lì, che è bravo, aveva dei problemi la macchina di mia moglie al cambio, le marce dure entravano con difficoltà, quindi tutto il cambio gli hanno dovuto sostituire e visto che c'erano pure la frizione, 600 euro. Andato onesto, Mi è andata anche bene. Vista, sì. La mia compagna ha avuto un problema, ha fatto frizione. Vabbè, piccole cazzatine, dai. Comunque, la Ford gli aveva chiesto 2000, perché dice c'era un problema al cambio, saltavano le marce perché c'era un coso di saldato, perché l'avevano già saldato loro, c'era di saldato, in più non c'era olio nel cambio, poi aveva la frizione nuova, dopo 600 euro aveva speso, no mio amico. Sì, no, già questo già è abbastanza onesto e me l'ha fatta anche in pochi giorni. Prima mi ha chiamato, mi ha detto che i pezzi si trovavano, che se gli davo l'ok li avrebbe presi, mi ha detto quanto era il lavoro prima, per cui senza sorprese lo sapevo già da prima quanto avrei speso. Praticamente sono quasi 300 euro di pezzi e il resto è mano d'opera. Comunque già è stato onesto, dai. Lavoro c'è, lavoro vuole ben pagato, no? Come si dice. E quando uno se li lavora e ti fa il lavoro bello preciso, niente da dire, paghi e ti stai zitto e ti devi stare zitto zitto, perché secondo dove la fai ti chiedono anche 800 per il lavoro che ho fatto io, tutti i cuscinetti del cambio più la frizione, anche 850-900 qua a Sassari. Nicola è andato bene, si è andato bene, la macchina nuova è tua moglie, sì? No, non è nuova, no, è una macchina che ha pochi chilometri, ha 11 anni di vita e ha 76.000 chilometri, ma la usa solo casa lavoro, lavora a Sassari, per cui fa pochi chilometri, però si è sballato tutto e quando è così, dopo tanti anni, queste cose le devi cambiare, se no ti metti a sostituire la macchina e questa la devi rottamare o te la devi vendere così com'è, quindi la stai quasi regalando e poi vai a spendere un sacco di soldi in più, tanto vale, ti lasci la tua macchina, te la metti a posto bene e tiri avanti un altro anno, altri due anni, altri finché non esce fuori qualche altra cosa, capito? Ah, beh, certo, avanti Eugenio. Io mi sono messo in testa una cosa, la prossima macchina che compro sarà X4 della Bivio, l'ho vista, mi piace e mi rabbiglio, poi ritornerò, mi compro una Panda e basta, non me ne frega niente, però per forza arrivare all'X4 e poi venderò l'X4 e mi prendo una Panda. Ebbene, io quando finirò di lavorare mi prendo una Panda 4x4, piccolina, maneggevole, va dappertutto e non ci penso più. Io, Carlo, mi. Non fare come ho fatto io, mi. Mi ho preso la Panda 4x4, nuova, e non ce l'ho fatta che c'ho un garage 2x2. Tu metti la Panda due volte dentro. Andiamo a trovare, è poco che la lavora, non entra perché è 4x4 e garage 2x2. Ciao vicino, vai, se mi faccio lo smitter. Il mio garage allora è 16 metri quadri, quindi 4x4 16, già va bene, giusta ci entra. Oh, c'è 1800 metri di strada, tutta mia, 200 metri quadri di giardino, altri 3600 metri di terreno, ce ne stanno macchine. Vuoi comprare anche il camper là? Pensandoci sono, mi figlia piace molto, pensandoci stiamo. Ascolta, ma fa parcheggiare la P50, ne hai spazio? Il top di gamma, Cartago, non ve ne va nessuno, lo vuoi? Quanto? Il mio adesso è valutato 80.000, ma ci mettiamo d'accordo, se lo vuoi ci mettiamo d'accordo. 80.000 euro per un camper, ma tu, ma così, 80.000 euro mi compare giù una casa e mi affitto. Vai, il camper è una casa, anzi il camper lo puoi affittare se vai di più di là. No, spenderò mai io cifre così per prendere una cosa da divertimento. La casa vi raggio, grazie a Dio, anche una giornata e due, quindi non è quello il problema. Il problema è che il camper è un divertimento per me. Andare a fare scampagnate in giro, l'estate, a destra, a sinistra, no? Non è il mio caso. Sto scherzando, non è una cosa che mi piace, per carità, è una cosa bella da vedere, da avere. Ad esempio mie zii ce l'hanno, il camper, mia sorella ce l'ha, però non è una cosa per me oggi. Va bene, lo vuoi fare un affare? Carlo, lo vuoi fare un affare? No, io proprio nel camper non me ne faccio niente. Quando finirà di vivere la mia povera suocera, ci compriamo una casa al mare e buonanotte. Ma guarda, io la casa al mare praticamente ce l'avevo, l'ho venduta subito perché sono comunque vincolato a stare sempre lì e poi se saltavano lì dentro gli amici, sempre a fare festa e poi a pulire, un domani sempre toccava sempre a me e a mia moglie, ho detto boh, prendi tutto, siamo passati al camper, ci andiamo lì in giro, ci troviamo con gli altri, però nel nostro camper non entra nessuno, come noi non entriamo negli altri, e in più abbiamo diciamo, il vantaggio che riusciamo a avere più posti. Ho capito, però ci vuole anche il posto per poterlo tenere. E io qua c'ho solamente il garage, capito? E se no ti devi procurare anche lo spazio per tenerlo. Il problema è quello. Comunque ragiono genio, perché mia madre ce l'aveva a Maristella prima, la casa al mare. Poi quando hanno costruito a Fertilia, hanno comprato la casa di Fertilia, dove ci abita anche mia sorella, a fianco, eccetera. Poi mi ricordo quando andavamo, eravamo costretti a stare tutti lì a casa, chi usciva andava al mare, chi rientrava variava l'albergo, a destra, a sinistra, fa pulizia, toccava sempre a mamma. E così, la realtà è quella. Sì, ma forse tu proprio dove ce l'avevo io? Io ce l'avevo a Baresi al mare. Bella, una casa mare, praticamente era un cuscinotto vivibile, abbastanza grandetto, un bagno e una camera da letto e una cameretta. Insomma, una casetta era 85 metri quadri. Però c'era la piscina condominiale, grande, bella, con tutte le traio, era bellissima. Però che quando si è prima tutti. Tutti ogni fine settimana eravamo lì. Non andava bene così. Poi non è che l'abbiamo venuta per quello, ci siamo anche un po' stufati ad andare sempre nello stesso posto. Andiamo a dire, no? Ma dove c'è il supermercato, il complesso nuovo che hanno fatto lì? Esatto, complesso nuovo in villette, era di villette a schiera, sì. Dove c'è il supermercato lì? Cioè cos'era? Assisa, non me la metto cos'è. Assisa, certo. Io abbiamo fatto tutti gli allacino, ho lavorato 2 anni a Baresi, Baresi, Trinità, Montigioni, tutte quelle zone, Baresi a mare, tutto. Sì, dove c'è la salettina, a sinistra c'è il... Si entra da sotto e anche dalla salettina per andare poi su a Trinità Lagusto, no? E certo, lì c'è la piscina condominiale, tutto bellissimo, bella vista, bello, molto bello quel complesso. È rosa e bianco, molto bello, sì. Conosco. Sì, ma hai ragione perché è successo anche a noi, capite? E allora mi ha detto, beh, allora basta, allora mi vendo la casa di Maristella, me la voto a Fertilia, abitabile, d'estate me l'affitto e vorrei la biglietta di tutti i culo, proprio così ha detto. Così ne ha venuti di venire a farti le ferie e a me mi tocca pulire, anche perché mamma era già grande, insomma, adesso vabbè, c'è 90 anni, ma quando aveva 70 era la stessa cosa, quindi è così. E vabbè, avanti Carlo, riprende e fai girare. Eh sì, poi diciamo già è bello il camper, ma a parte lo spazio poi ci vogliono l'idina e io ho le mie spesucce, figli all'università, a scuola ancora, quindi ne ho da zappare. Lo so, io ho avuto la grande fortuna che mia figlia subito dopo il diploma è entrata nell'ambito alberghiero e grazie a Dio c'ha 35 anni. Ne aveva 16, quindi è sempre nel settore, adesso è una piccola imprenditrice per i fatti suoi, sempre con altri due soci, sta lavorando, grazie a Dio, non è mai mancato niente, e va bene, l'università si era iscritta, però lei le piaceva Munira come il padre e quindi si è messa a lavorare subito e si è realizzata tranquillamente. Tutto qua. Avanti Gianni, dove sei? Non c'è più Gianni. Sicuramente si deve essere spostato perché dice che stava aspettando la moglie, poi ho sentito che gli ha suonato il telefono e non l'abbiamo più sentito. E allora è al telefono con la compagna, va bene, è così, hai pienamente ragione, io ho la vendita della casa a Carpati, potevo fare un investimento del genere, però a me piace molto andare al mare, andare a casa al mare, soprattutto lì nella zona di Marrisa, quelle zone lì che conosco molto bene, è un investimento così, non lo so, sempre per la stessa motivazione, vabbè, comunque vedremo più avanti, se capita qualche occasione buona, vediamo più avanti, adesso i miei investimenti sono tutti qua, ancora c'ho cose da fare, sto finendo l'altro mini che c'era una stanza grande, l'ho fatta tramezzare e fare, lì esce un venuto a casa, abbiamo preso il suo camper, però poi ho proprio cambiato idea, e da chi me lo dice dico guasto sbagliato. L'ho cambiato idea da quando mi è servito per andare a Praga. Sono andato a Praga col camper, ho fatto Germania, Austria, lusso. E dal giorno ho detto, boh, è proprio vero, il camper è 10. E adesso ho preso questo nuovo che ho pagato un po' di soldi, ma vabbè, sono investimenti che comunque non va mai a perderci. Mi prendi carico. Sì, hai ragione, è un, diciamo, libertà assoluta quella, e ti permette di vedere un sacco di cose che non, altrimenti non vedresti mai, capito? Quello non ci piove che sia così, ma devi avere oltre la passione anche tutto l'altro corredo appresso, lo spazio, insomma l'investimento lo devi fare poi, perché sono cose che costano. Secondo cosa vai a prendere di camper, penso che arrivi tranquillamente anche a 100.000 euro, senza esagerare troppo. Confermami che è così, no? Sì, sì, il mio se vuoi comprarlo costa 130.000 euro, senza stare lì a nascondere niente, 130.000 euro. Però io ho preso quello aziendale, che lo usava l'azienda per metterlo in esposizione, e mi hanno fatto un grosso sconto, io ho pagato 98.000 euro, invece pagano 130, l'ho pagato 98. Era una bella cifra, capito, da investire, insomma, magari più in là, non lo so, se avrò la forza economica e la voglia potrò anche farlo, ma al momento per me è impossibile fare una cosa del genere, anche se immagino che sia una bella esperienza quella del camper, capito? Dentro immagino che avrei messo anche la radio, perché non ti deve mancare niente, non è così oggi? No, io addirittura da pochi che l'altro giorno ho fatto l'impianto wifi nuovo, un impiantone grande dentro il camper, un impiantone con le casse, il subwoofer, insomma, me l'ha fatto fuori di lì a Sassari. E vabbè, ho il baracchino, tutto, il mio camper non manca niente. Roberto Quadrato, quello che entra, Roberto, l'ha visto, si è messo mai in testa, è tipo Fullman. Lo immagino. Quella è una bella soddisfazione, anche se riesci a sistemartelo bene, avere tutte le cose che ti piacciono, capito oggi? Complimenti. A te Claudio il microfono. No, Eugenio, ho già sentito le soddisfazioni, non ti preoccupare, ce lo conosco. È giusto che sia così. Io purtroppo sono più grande di lui e quindi il mio investimento è stato questa grande mia passione, questa veramente voglia di allontanarmi dalla città, di investire in una casa come questa, tu l'hai vista Carlo. A proposito, l'altra parte è uscita tutta l'erbetta, finalmente ce l'ha fatta a risuscitare il pezzettino che mancava, l'avevo seminato già da molto, è passato una serva, proprio avanti ieri, quindi giusto per dirtelo, quel pezzettino che mi ha detto come mai non c'è l'erba, non era ancora uscita, adesso con queste piogge ha spuntato tutta una volta, molto bella, c'è tutto completamente, tutto verde, proprio a biliardo, da giocare a golf, capito? Quindi tu l'hai vista, il mio investimento è tutto qua. Io ero, quando avevo qualche anno in meno, a me la macchina nuova, le macchine grosse, la moto e quella e quell'altro, adesso basta, cioè, superato i 60 anni, sto andando per i 62, quindi la mia cosa era questa, di arrivare a quello che ho fatto Carlo, quindi sono contentissimo di quello che ho fatto, per carità, rispetto agli altri, Eugenio fa benissimo, benissimo alla grande, divertirsi, comprare, vendere, disfarsi, ricomprare, bellissimo l'X4, l'ho visto, c'era un mio carissimo amico, un medico, molto molto bella Eugenio. Una bella macchina, veramente una bella macchina. Proprio dentro la mia nuova non l'hai vista, no, ancora non l'hai vista. No, la BMW no, la Mini sì, la Mini mia, adesso se la prende mia figlia, proprio quel modello lì. Quel modello lì, adesso versiamo la 147, cioè versiamo, la 147 me la biglio io. le aggiungo qualcosa ai soldi io e se la prende, si prende la Mini. Io se vuoi la mia, non voglio fare la mia, c'è anche pochi chilometri. Infatti io la devo versare tra un po'. Boh, non so, lei è molto amica di Massimo, Massimo Mele. Lei col ragazzo sono chi pulisce quell'officina e l'azienda che c'ha la mamma di mio genero, capito? Fanno le pulizie lì, quindi hanno un vantaggio enorme, non lo so, così mi ha detto, io ti sto dicendo, io non è che non ho detto mezzo ai fatti loro, però mi ha detto papà, ti passo la 147, te la tieni tu e io mi prendo la mia nuova. Vabbè, è così, è giusto che, perché lei fattura, capito? Le serve la fattura. No, capito. Io tanto lavoro a me. L'avverso me ne prendo un'altra. Mi prendo la Faceman. Bella. Ascolta, ma l'avverso da me, da Massimo? Beh sì, è l'unico qua che prende Mini. Guarda, l'avverso da Massimo mi stai a prendere un altro nuovo a Preganiella. Il Cagliari, questo qua è il Cagliari. Se il primo che mi fa il prezzo migliore la do. Beh, vabbè, c'è anche Olbia, per quello non è un problema. Vabbè, quando l'avversi avvisami. Secondo dove l'avversi, se le fanno un prezzo buono, la tua nuova nuova aziendale si può dire, quindi. Se c'è a risparmiare, perché no? Fammelo sapere. Però, te ripeto, da te diretta non la può prendere perché lei le serve la fattura. Deve scaricare. Ti avviso. Quello di Olbia è comunque Mele. È sempre Massimo, quindi cambia poco. Non cambia niente. Sì, lo so. Appunto ti ho detto ce l'ha anche a Olbia, forse non mi sono spiegato bene io. Massimo ce l'ha anche a Olbia, quindi se non ce n'è qua andranno lì, ma comunque già va bene. Ok, avanti Carletto, vediamo un po', lascia un po' di bianco, vediamo se rientra Gianni. Eccomi, sono qua, dai. Ho stato a tema che la sono arrivata a casa, va. Che sono andato a prendere l'aereo, adesso sono arrivato. Stato a casa, avanti Claudio. Sono pulito. Pulito ci seguo qua, ma non sapevo, pensavo che al computer. Ciao già, ben rientrato, il cambio allora per Carlo e fa girare per Luca. Allora c'era pure Natalino, non so se ci sia ancora, vediamo, lo lanciamo a vedere se c'è, se non riprende Luca. Cavolo, se lo lanci prendiamo e mi fai male. E sono qua, claro, no, stavo, mi sono prenotato con la visita là, poi stavo controllando un telefono, cioè più che controllare lo stavo smontando perché stava sempre squillando, siccome è stato il display che lo devo sostituire, allora l'ho aperto e ho peccato la batteria, sembra che entro di notte, mi disturba, mi sveglia, adesso sono le 4, 5 del mattino. Mamma mia, non vuoi fare a me, cazzo di Dio, bibi, a chi sta mancando che sono andato, invece la bruci, ed era l'orologio che c'ho qua, che ho lasciato l'allarme inserito, della sveglia e poi tutto da giù. Riprendo un attimo, io mi assento perché devo uscire pure in terrazzo per prendermi la giubba della divisa che la metto sul radiatore, se no non mi asciuga, me ne stavo dimenticando, stanotte c'ho il turno e se no rimane umida, capito? Riprendo tra un attimo. E non asciuga più la roba come prima, di notte c'è umidità e la mattina, anche se la sera del giorno prima, è ancora umida. Io ho dovuto comprare la asciuga già, perché io posso prendere mio anche sotto il cavello, però c'è talmente umidità che non ti asciuga subito. La roba di l'aria per lavoro ho dovuto comprare una lavasciuga, cioè una lavasciuga, l'asciugatrice, non la lavasciuga. Ma te la lascia tutta grinzita, tutta Sì, invece quando la stendo la tiro bene e non c'è bisogno manco di stirarla. Vabbè, cazzo di scusi, sono già una roba va stirata, cazzo la camicia la grinzita e mi bongo. Anche se le stiri bene, le stendi, le camicie, le c'è le divise, le cose del bar vanno tirate. Cazzo, la cadina ha regato 30 sotto, quelli a fare ci mettono i tavolini con le tovagliette, cazzo non le stiri, le vanno stirate, piegate bene. No, è perfetto. perfetta, con l'asciuga perfetta, 10 minuti la roba è tutta asciutta. La prendi, la roba la stirare, la stiri e il resto la metti a posto. Ma avete sentito quanto è aumentata la luce a proposito di elettrodomestici, di queste cose qua? Il 50% la luce, il 40% il gas. Ehi, lasciali qua, intanto, se non muoiono le lampe morirono. Quindi stiamo attenti agli amplificatori, poca potenza, sempre 12 voci, perché altrimenti è un casino. Proprio stamattina l'ho fatto il pieno al bomboloni io. Sì, oggi diciamo discorso, 560 euro io, ogni 2 mesi ne manco. Ma tu a gas, Eugì? Come? La macchina tua a gas? No, il bomboloni in casa, la mia macchina non è a gas. Ah, bomboloni in casa. Ma dovrebbe essere il GPL aumentato, non so se sia solo gas in genere oppure se è solo il GPL. Non so, comunque gli aumenti ci sono stati e sono tanti, perciò bisogna stare un po' un po' attenti, cercare di spegnere un po' di cosette. Io cazzo ho 2 frighi grandi, uno nella stanza del Carverio, frigo a posto, quindi 3 frighi in funzione, 2 lavatrici perché ne ho una anche per il cane, l'asciugatrice, mamma mia come sto. Pannelli solari qua. Prima la pandemia il gas l'ho pagato a chilo, al litro, quello che è, non lo so, 87 centesimi. Oggi l'ho pagato a 1,06 euro. Sì, costava anche molto meno, già lo so. Vabbè. Usa pannelli solari già. Cioè di scemità la gabbicuria. No. Tu non serve solo, ma qua l'estetica è molto importante, vero Carlo? Carlo? Si è allontanato, sta ricchiando la divisa. Ah, la divisa, io ho capito. Frattarino, ci sei? Sono rientrato adesso, riuscito ci sono già. A mettere l'antenna? L'antenna, che c'è l'antenna dopo. A pigliare l'appuntamento per quell'esame lì. Ma lo pulisci? No, quello l'ho già preso, quello è a pagamento. Quello del cuore. E dove l'ho preso quello dell'oculistica? Al policlinico, a pagamento. L'USL non è quasi, mi ha detto. E allora mi sono rivolto al policlinico, manco loro avevano date a pagamento subito. E cazzo di fare pagato di qui? 50 euro, già è poco. E allora vado anche io lì. E poi mi fa sapere com'è il numero per il telefonato. 1533 oppure 070 27 64 24. Al limite me lo dici quando vuoi sapere i numeri e te lo dico. Non c'è problema, se non fai niente bacribito. Sì, devo fare 2 visite, una al fondo, il fondo dell'occhio, e un'altra ne devo fare. 2 visite sono 50 euro, mi piglia. Anche io, fondo sopra. Fa la diabetologa, insomma, si visita. Il diabetologo è una sopra quello per la retina, per il distacco della retina, no? L'ho fatto l'anno scorso, io adesso lo devo rifare, più quello per il glaucoma. Mi pigliano 50 euro, non lo so com'è quello del glaucoma. Bello. Anche io devo fare quei 2, quello del glaucoma e quello fuso. 60 euro mia moglie per il glaucoma. No, 50 tutte e 2 a me, al policlinico. Tu digli che vuoi andare al policlinico. Mia moglie al policlinico con una donna era. E anche io con donna era lo devo fare, 50 euro mi ha detto che... Mia moglie 60 spesso. 60, mia moglie è natalino, prima di Bionce. È venuto già da diverso tempo questa cosa. Il glaucoma e non ci vede più, infatti prende la funzionalità, però adesso sta facendo aggravamento perché gliel'hanno chiesto, capito? È un casino, vabbè, lasciamo perdere. Allora dopo di Pina, non dovevi uscire. E cosa vuoi ti dire? Vabbè, il giorno 21 non la devo fare questa cosa, però piglia dire appuntamento un Gianni, se la devi fare, che così almeno sei tranquillo, o se no fatti fare l'impegnativa e vai direttamente all'accettazione e te lo dicono loro quando andare, se non vuoi usare il CUP. Se no c'hai due, mi anzura giovinito, tutta la di sopra telefonente, non mi rispondi mai. Ma direttamente al policlinico, non puoi chiamare? Ehi, chiami direttamente al policlinico, c'ho il numero qua, aspetta che te, ce l'hai da scrivere, se no quando sei a casa me lo dici e ti do il numero del policlinico. Ehi, sono a casa, la fai, sono con la penna davanti, dimmi. A te che cerco il foglio. Sì, allora, metti a mano, tu quando hai riclamato lì. Per fare quell'esame con il dottor Romera, bravissimo. Mia moglie la sta seguendo lui, oggi ha fatto l'OCT, che è praticamente l'esame dopo, questo, quello che ha fatto, però l'ha fatto la clinica oculistica, l'hanno mandata, perché lì sono molto più precisi, capito? Sta pagata. Vabbè, vediamo se la carina ha provato il numero. Ho speso per operazione ad un occhio 1500 euro, era solo un mondo mio, tutto lo fa passare perfettamente, dove è nato Piccinini, se l'avessi fatto con la moto mi ha pagato circa 900 euro, però me l'avrebbero fatta dopo 2 anni e a me serviva subito, capito? E quindi quando vuoi le cose subito devi pagare qualcosa in più. Hai cazzicato Nattalino, Nattalino lo stavi dicendo. 800 euro ci ha preso. Guardo sul computer, dai, non l'ho trovato il foglio. E va bene. Aspetta, se c'è la mia moglie te lo passo io. Ma dovrebbe avere. Avanti, avanti, Claudio, riprendi. Oh, me ci vorrebbe essere ancora Giovanni da Paccalona. Ah, Giovanni c'è, avanti Giovanni. Già, mi sta dicendo mia moglie che quando chiami al policlinico risponde il CUP. Capito già? Cosa? Che quando chiami al policlinico risponde il CUP. Ah, ecco. Quindi che numero che dovrà fare è quello del CUP? È uguale, non cambia niente. No, papà, 079, dai, scrivici. Esatto. Gianni, oh. 079 22 27 77. Ok, grazie Natalia. Poi vabbè, ho tutto questo perché devo fare solo questa di visita e poi la cardiologica mi ha prenotata. Vabbè, grazie. Telefono e piglia di appuntamento. Ma quel numero risponde al CUP, Natalia? No, il policlinico risponde e lui gli dice che deve fare questa visita qua, gli dà il numero del... e chi tu dici? Però non abbiamo posti e a pagamento di Dizzi. Se tu ridichi, aspetti, subito ti pigliano in appuntamento, immediatamente, questa è arrivata a me, tutti nudi. Cos'è funziona così? Piccirini, piccirini, bravissimo, bravissimo, bravissimo. No, mia moglie era la dottor Pirino prima, che è molto bravo lo stesso, poi andato in pensione, adesso c'è Donaera. E io pure sono con Donaera, ho l'appuntamento con questo Donaera. Bravo, bravo, già bravo. Vai Eugenio, Eugenio, Chihuahua. Non vedo l'ora di poter riuscire per salire a sessa lì e prenderti il microfono. Mi sa di farlo prima io, boh, sto decidendo, perché domani devo andare al Bicomè a comprare una sua rosa erba. Fatti un salto a casa. Non so oggi, vediamo se ce la faccio, perché vado a comprare un'altra vaserba, mi serve, quello che è troppo piccolo. La voglia di tagliare erba, aspetta primavera da te, quanto cresce Claudio? Era il prato mio, non ho mai sentito, la parte che conoscevano tutto ancora non c'era, adesso è cresciuta e si vede la cacciola tutto bello, verde, tutto il prato. Quelle aree di pioggia che si fa le belle giornate, ma la grande sole e le chimie vanno a crescere. Sì, avevo messo i semi. Non possiamo proteggere le formiche. Però non stava piovendo, quindi come è iniziato a piovere, ma è cresciuta tutta assieme. Sai quanto è bello adesso? Bellissimo. Ho fatto una prima passata con la riserva piccola. Però è... ci vuole quello regolabile in altezza, capito? Il mio vicino se l'ha comprato al bico, ma domani vado me lo compro anch'io, perché c'è quello che non ha la praticamente la facciatrice è non regolabile, allora me lo prendo regolabile in modo che posso abbassare e fare io l'altezza, capito? E per il prato inglese? Io c'ho il prato inglese, sì. E allora può uscire il regolabile in modo di raccheggiare, dici tu? No, con la piove non ce l'ha la regolazione del macchiato schiena lama, insomma. E quindi rimane troppo bassa, che me la taglia troppo a zero. Allora la metto regolabile a 2 e la taglia tutta, che rimane bella, capito? Sì, è molto bello adesso, Carle, molto molto più bello. Prima si vedeva quel pezzettino che non c'era il prato, era brutto, sembrava zappato. Invece c'è tutto verde, proprio tutto verde, verde, verde. Infatti due begli alberi di ciliegio lì, si fanno i fiori a primavera, poi ti danno la frutta buona. No, troppo lavoro, hai visto che cosa ho messo, frangi coso, rosette, muretto, ho messo tutti i tronchetti, stanno già salendo, già li ho messi da questa estate, figurati. Adesso come è piovuto stanno salendo bene. Bello bene, non ne metto di niente perché lì c'è un altro progetto, capito? Non so se ce la faccio quest'anno perché devo finirmi con l'altro mini casetta che ho, però sicuramente faccio fare la piscina, perché intanto le possibilità di mare ne abbiamo poca, quindi mi diverto a casa. Quelle siepi che hai messo sicuramente a primavera crescono parecchio, perché le siepi da primavera sino a tutta l'estate crescono e quindi quelle se ne vanno anche in altezza, si allargano e ti fanno un bel gioco lì dove c'è il muraglione. Infatti per quello l'ho messo, anzi non l'ho messo, l'ho messo il mio vicino, perché andavano così, vabbè, poi mi usci, capito? Allora adesso vediamo. Devo salutare tutto, poi visto la veranda come lì ci sono i due salutini, le due cose, no? Non ne metto alberi, ma ci piglia l'usorio, l'albero porta fresco, porta freddo, no? Va bene così. Davanti a chi tocca? Gianni. Però li tocca Gianni, io non so se l'avete chiamato, al telefono con un amico che l'ha contato con me, lui positivo, la moglie negativa. Allora è arruinato. Lui l'hanno fatto la stessa cosa, io la diapositiva e una negativa o lui. Per carità, va. Però tu casino. E vabbè, ce ne siamo un po' a casa devo fare, altro non posso fare. E finché non diventi negativo, lui. Tanto sei cuoco, ma ne metto. Lo so, ma poi se faccio un coso di cuoco, ma ne mi passa la positività e l'altro negativo, poi diventi tu positivo. Ma non ti funziona la picchiriola, mi dice, dopo. Sì, già non funziona più, Issa. Se si butta pure a terra, lo manda. Cra, ciaffi, colpi di macchia da capo, non da più. Cioè, ti vuoi fare una molletta e la salia, se ti chiediamo, non ancora un bello l'accoccato. Proprio la legge un capo, ma sì, a molletta, niente, nulla, manco qua detto, che te ne varia la massa, te ne varia. E claro, allora ti devi mettere la cornicella, come povero Torelai. E allora, adesso mi fa un po', vediamo, pensavo ci sto, ma ho comprato un rotolo di raffia, allora ero un capo, è reato a vedere, sempre a cavatera, ma sempre offeso, poi uno l'ha fatto nulla. Caro Carletto, oia, questa greffa dei detenuti che hai conosciuto oramai. Il 29 alle 16.35 c'ho il terzo io, lui, vicino a casa tua. Ma il 29 gennaio l'ho fatto già il terzo, sono a posto, per il momento. Sono a posto. E vabbè, ma comunque ancora il mio sicuramente non è entrato in azione. Non ti fa nulla se sei vaccinato, Lu. Addirittura quando ti passa poi sei più forte degli altri, perché c'hai gli anticorpi. Yeah. Io manco un attimo che mi sto mangiando un pezzo di frittella. Alla faccia mia, no? Qui, poco fa l'abbiamo comprato con mia moglie, non ci siamo usciti. Sono andato a fare questa vista quando siamo usciti dall'ospedale, poi andiamo alla Conad. E ci guardo poco i barabattoli. Beh, buona. Stanotte le scaldiamo e le diamo una sussetta. E tu, genio? Sì, dimmi. E allora, quindi? E allora, quindi qua siamo, qua stiamo tirando un po' per la chitarra, per mettere il tempo. Io volendo accordare la bicicletta ma non accorda, la giuita Natalino, ma ci posso fare una molletta, Rubennino, lo qui a coi, prima onda, non accorda, non canta. E il comportante del TC, Santiago 7, gare. Ma ecco il carte, vai, riprendi il carro. Bravo, Marco, bravo. E beh. Ah! Sentirò 7 arrivi, perché non arrivi fino? Allora perché non mi rispondi, buona tutti, va bene, no? Sto parlando anche se con te, dovrei essere c'è ancora. E via, ovvio 10. Ah, tu vedi, allora stavi accordando. Ho visto il segnale, mi sembrava una portantina che c'è ogni sera. Sentivo 7, Vanni, ma prima non ti avevo capito di tu. Vediamo se ti ascoltano gli altri. Carlo, lo senti a Vanni nella sosso? Allora sta mangiando la frittella, io lo sento basso. Non so se mi ascolta lui, ma è basso qua. Ehi, ti ascolta anch'io basso, comunque. Ehi, come ricordo come togliere il doppio Facebook, perché, vabbè, mi ascolto qualche altro in meno. Comunque va bene, là, era un po' di tempo che non accendevo questo apparato, vabbè, non tocco dalla macchina, ma comunque mi sa che lo rimetto. Io sto per fare qua, non mi interessa solo la radio, perché questi in AM non è che siano al massimo. Invece è bellissima la radio, Vanni, bella corposa, pulita, bella chiara e bella forte anche. L'unica cosa che devo fare adesso è, aspetta, no, devo solo guardare la potenza per vedere quanto... Io ti ascolto un po' passato, poi buonasera. Ho capito, come mi ascolti? Io ti ascolto un po' passato. Per caso c'è un muratore? C'è anche il protettore attaccato, forse è troppo forte la modulazione. No, Eugè, cosa c'hai nel 140 inserito? NB, dove c'è scritto NB, NB1, NB2 lì, non glielo se c'hai NB1 inserito. No, non c'è niente inserito, niente. Io sto ricevendo e trasmettendo con la stessa radio tua, e qua arriva molto bene, radio chiara, bella, pulita. Può essere anche dalla radio, capito, che utilizzi, magari c'è la frequenza stretta o larga e questo tutti i problemi di ricezione. Adesso vedo, perché non so, non riesco a leggere la potenza quando sto uscendo, ma penso una settantina di fatto, una settantina di fatto. 10 ampere di assorbimento, si dovrebbe essere 10-12, se non fosse una settantina di fatto. Guarda, è importante che comunque vale bene, ancora funziona. No, funziona Vanni. Funziona perfettamente, ok. Avanti, Natalino, lo senti a Vannino, tu no? Basso, lo sento, incomprensibile. Ciao Vannino, buonasera. Scusi, anche io comunque, già aspetta, hai messo l'altro, va. Vediamo come esce l'altro. Claudio. Ehi, dimmi, io... Oggi. Ma l'ultimo cursore, dove c'è scritto NB-level, come lo devo sapere? A metà il cursore e NB1 inserito. A metà il cursore, io adesso non c'ho niente inserito, sono tutti fuori i tasti. Dal cursore dov'è? Sempre a metà lo devi mettere, perché se lo metti al massimo ti fa quel difetto che ti sta facendo. Il cursore è a metà, poi inserito, non inserito, sempre a metà il cursore. Ma dove c'è scritto NB level? Esatto, il cursore dell'NB, del noise blanker, quello lì, a metà. Mettetelo già, che ho trovato la T250, già, Gianni, non so già niente, già non deccia via, boh. Cosa? E che se scende in scia va? Eccola qua, va meglio? Ancora non ti comprendi. Pensi che il segnale non c'era? Aspetta, pensa a zero. adesso sta andando bene, ma comunque non c'è neanche il segnale. Vabbè, va, va, via il segnale, non mi ha fatto. Aspetta che tengo la testa. Aspetta, devo togliere perché sennò mi fa dentro, da vetro, mi fa dentro il microfono. Vabbè, va, segna male, già mi ricordo ancora come più. No, questa va bene, mandi alla grande. E ti direi. Questa qual è? Che invoco o lo riesce? No, adesso non so vero, me adesso anzi sto facendo pure perché esiste, non ricordo di accendere le stanze. Ma questa non ce n'è. Questa va benissimo. Sì, ne ho 4 da altri, io esco. Questa mattina mi ho trovato il... ho fatto il pagamento per la T250. La correttore di linea automatico, già lo conosci. Per 140, oggi completo tutta la linea. Ho trovato un prezzo veramente stracciato, nuovo nuovo. Io l'ho rimasto del continente, che non lo usava più. E gliel'ho comprato. Almeno c'è tutta la linea, anche il 140 con la correttore automatico. Ma usare il 27, cosa ne fa? Sì, li attacco anche la verticale, ho comprato la verticale 5 bande, la pickup voluto. Attacco lì, c'è la correttore automatico e già accorda, due chiacchiere le fai, se sacchiamo che c'è il correttore manuale. Ma allora ce l'ho uno manuale, ma non lo so mai. E poi la T-80. Io c'avevo la T-230, siamo lì, sono simili. L'avevo venduto però con, non mi ricordo con che cosa, avevo fatto una linea semicompleta. Là. E quindi ho sprovvisto di accordatore buono. Visto questo stamattina l'ho comprato. Va bene, Carlo sei rientrato? Carlo? No, vai tu, oggi. Come qua? Vai tu, chiacchiera, e poi fai girare per Luca, per Natalino, fai che cosa? No, io mi sto facendo un giretto. C'era Giovanni di Platalona, mi sa dove l'aveva lasciato proprio la poppa di Bruzzo. Giovanni di Platalona, mi ascolti Giovanni di Platalona? A poppa l'abbiamo lasciato a prua. Sono a poppa. A prua ci sei sempre tu, io, Natalino e tutti gli altri. A prua, a poppa. Vediamo a poppa se è rimasto Luca, Luca. A poppa o a prua sì. Vedi, Luca è a poppa. E Natalino a prua sì. No, Gianni è a poppa lo stesso. Poi sono passati tutti dalla prua alla poppa. Tutti a poppa, vai, tu fa poppa. Poi un gamba di sedi. Ma adesso la Biandra. Oh, ma che le siamo? Le 6 e mezza, 18 e 28. Allora ma ci abitiamo un atto. Fatto. No, è che sono seduto qua già da un'oretta, mi sono già rotto le balle. Adesso vado a bere una cosa fresca, dai. Mamma mia, aspetta a guardare il ghiaccio, non ti occupare il ghiaccio, capito? Ah. E non cerco di bere anch'io, dai. Ah, no, una cosa, una lanciata, una mattina di birretta, vediamo cosa c'è il frigo. Vabbè, se li avanti, mi appoggio qua. Ti attorno subito, ora 5.25, c'è quel CEO, passa lì. Da un cielo grigio di piombo, piovono lacrime di rame. Il cielo piangeva distratto, la sua libertà perduta. Andiamo, andiamo. Niente. Bello, Giovanni o Giorgio le sue chitarre. Sì, magari. Vabbè, mi sono dato la corda qua. E parte sempre la terza partendo da su. Sempre chissà basti. È già bella grossa. La terza partendo da su, non è grossa. La terza partendo da su è grossa. E io credo ti partisse l'ultima e tre, dai, che sono fini, il micantino, l'ultima. No, il micantino no. È al centro, là. Quello sta al centro. Non è in nylon, l'altra. Vabbè, è utile in nylon, lo so comunque. E vabbè, già ben bronca, tanto. Io non ho reso più su me. La stavo suonando sabato, quando ero al circo da un amico. telefonano, boh, c'è chi fa i calli, un casino. Lo so. Ci sono, io ci sono, se me la scudo più mi danno il microfono. Cazzo, ci sono 50.000 voci, boh, Claudio, ti sono 50.000 voci, insomma. Allora, qual è? Cosa facevo? Rispondevo, non facevo. Parlare con due persone contemporaneamente. Era al telefono. Ah, ok, no, giusto per sapere. Tranquillo, ci manca uno solo al telefono, anche io vi avviso, abbasso il volume e via. Cappa, avanti. Vieni, ho riprendi. Gianni si era trasferito a Poppa, eravamo tu e stavamo parlando di andare a Poppa, adesso è ritornato a Poppa. Se sono tutta la sera preso Ciamene, mi appare fatta tutta, una volta che volevo stare tranquillo 50.000 telefonate mi fa, adesso sono rilassato, mi sono sdraiato 5 minuti, io ho fatto una cantata, ho fatto un duetto adesso 5 minuti fa e poi mi sono sdraiato. Si sta curando il telefono già. Cosa? Si sta curando il telefono. Eia. Oh, mamma mia. Un casino. Tocca, ma sono in un gruppo. Cosa? Sto dicendo, sono in un gruppo. Ho capitolo. Mi stavo dicendo che sono in un gruppo. Io? Mi hai detto, sabato stavo suonando. No, cosa gruppo? Il gruppo elettrogeno? No, così, simpellando. No, simpellando. Non c'ho calli. No, dopo due o tre canzoni poi basta, mi blocco, non ce la faccio. E come mai? I calli ci vogliono, se c'hai i calli morbidi ti fanno male, capito? Ma tu in acciaio sono le corde? La mia è, sì, ha le cose in acciaio, le cose in acciaio. Ah, sa usare la pennina, lui. Cosa, già, non ho capito. Usi la pennina invece che le dita. No, ma non hai fatto, certo che uso la pennina, ma dove tu schiacci le corde lì mi fa male. No, io non l'ho suonato la chitarra, la vita, non lo so. Sì, ma penso di sì, perché è tremendo. Però io i calli nelle dita, a differenza della cosa, io i calli nelle dita non la so suonare. Luca non ha i calli nelle dita e la so suonare, bravo. Ma forse ne sta facendo QRM, ma cosa mi sta dando fastidio, boh. Dove va a parlare oggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok. 10 Antonello, avanti ieri, domenica. Cazzo, arriva forte Antonello, minchia. Antonello, Antonello c'ha la posizione buona. È inutile che dica, Antonello è in alto, Antonello è praticamente all'ingresso di una pinetta, della pinetta di Placamona, però dalla parte di Monterraso. Antonello è a Monterraso, la zona più alta è Monterraso, quindi è tutto libero. Diciamo che non arriva forte. Per quello sì, non arriva bene, sì. È l'unico che arriva bene. Dai, sono domani di alzarmi, bello, bello pimpante, bello arretto. Beh, tutti spariti siete, tutti spariti. No, stavo finendo una canzone. Non è più la mia città di Giardino Trovato, che secondo me è una delle più brave con la chitarra, la più brava cantautrice italiana con la chitarra, proprio da Misciuda. Ah, beh, ce ne sono bravi. Bello strumento, bello, bello. Luca, sono di chitarra. Dopo otto adesso ci ho provato, ma era un po' guru. Sì, a Gianni, dimmi. Ma mi sta prendendo male quella canzone Castello Bianco, la conosci? No. E dai. Con piangere non ti devi vergognare, che se la vincere dalla prima elementare. Ma quelle cose, quel cretino che è nato da poco. già sto provando a cambiare di volte tu. Non la conosco. Come si chiama? Castello Bianco. Sì, la canta uno di quei trapper che sono usciti adesso. Un mezzo imbecille. Ah, sì, è nuova, sì, ho capito, I tattici nucleari, la casa. Chi? Tattici nucleari.